In quel momento venne il maggiordomo a dirmi che il primo pezzo era finito. Potevo lasciare la biblioteca ed entrare nelle sale. Questo mi fece ricordare dove mi trovassi. Ma nel ragionamento che avevo intrapreso non fui minimamente turbato dal fatto che fossero stati una riunione mondana e il ritorno in società a fornirmi quel punto di partenza verso una vita nuova che non ero riuscito a trovare nella solitudine. Non aveva tale fatto niente di straordinario, dato che un'impressione capace di resuscitare in me l'uomo eterno non era necessariamente legata, come avevo creduto un tempo, come era stato forse un tempo per me, come forse sarebbe ancora dovuto essere se io mi fossi sviluppato armoniosamente, senza quella lunga sosta che solo ora sembrava sul punto di finire, alla solitudine più che alla società. Infatti, poiché quell'impressione di bellezza la trovavo solo quando, per insignificante che fosse, una sensazione attuale, una sensazione simile, rinascendo spontaneamente in me, estendeva contemporaneamente la prima a più periodi di tempo e colmava così la mia anima, dove le singole sensazioni lasciavano di solito tanto vuoto, con un'essenza generale. Non c'era ragione perché non ricevessi sensazioni del genere in società come nella natura, visto che a fornirle è il caso, aiutato certo dall'eccitazione particolare in virtù della quale, nei giorni in cui ci si trova al di fuori del corso normale della vita, anche le cose più semplici ricominciano a procurarci sensazioni che l'abitudine risparmia al nostro sistema nervoso. Che fosse appunto e unicamente questo genere di sensazioni a dover condurre all'opera d'arte, avrei cercato di trovarne la ragione oggettiva proseguendo nei pensieri che non avevo smesso di concatenare nella biblioteca. Sentivo infatti che adesso la vita spirituale era avviata in me con sufficiente vigore per poterla continuare nel salotto, in mezzo agli invitati, altrettanto bene che da solo nella biblioteca. Mi sembrava che da questo punto di vista sarei stato capace, anche in mezzo a quella compagnia così numerosa, di preservare la mia solitudine. Infatti, per la stessa ragione per cui i grandi avvenimenti esteriori non influiscono sulle nostre facoltà intellettuali, e uno scrittore mediocre che viva in un periodo epico resterà pur sempre lo stesso scrittore mediocre, ad essere pericolose in società sono le disposizioni mondane con cui uno vi si reca. Ma essa di per sé non è in grado di renderci mediocri più di quanto una guerra eroica sia in grado di rendere sublime un cattivo poeta. In ogni caso, a prescindere dall'utilità teorica che l'opera d'arte sia costituita in questo modo, e in attesa ad esaminare questo punto come stavo per fare, non potevo negare che, per quanto mi concerneva, quando avevo provato delle impressioni veramente estetiche, era stato sempre in seguito a sensazioni di quel genere. È vero che erano state, nella mia vita, abbastanza rare, però la dominavano. Nel passato potevo ritrovare alcune di tali vette che avevo avuto il torto di perdere di vista, cosa che contavo di non fare mai più. E già potevo dire che se si trattava in me, per l'importanza esclusiva che vi prendeva, d'un tratto personale, ero tuttavia rassicurato dallo scoprire che esso s'apparentava a tratti meno marcati, ma tutto sommato abbastanza analoghi, ravvisabili in altri scrittori. Non è forse da una sensazione dello stesso genere di quella della Madeleine che nasce la parte più bella dei Mémoires d'Outre-Tombe? Ieri sera passeggiavo solo. Fui strappato alle mie riflessioni dal cinguettio d'un tordo posato sul ramo più alto d'una betulla. All'istante, quel suono magico fece riapparire ai miei occhi la tenuta paterna. Dimenticai le catastrofi di cui ero appena stato testimone e, trasportato d'un subito nel passato. Rividi le campagne dove tante volte avevo sentito il tordo fischiare. E una delle due o tre frasi più belle di quelle memorie non è forse questa? Un odore fine e soave d'eliotropio esalava da un campicello di fave in fiore. A portarlo sino a noi non era una brezza della patria, ma un vento selvaggio di terra nova, senza rapporto con la pianta esiliata, senza simpatia di reminiscenza e di voluttà. In quel profumo, non respirato dalla bellezza, non depurato nel suo seno, non sparso sulle sue tracce, in quel profumo che aveva mutato aurora, cultura e mondo, c'erano tutte le malinconie del rimpianto, dell'assenza e della giovinezza. In uno dei capolavori della letteratura francese, Sylvie di Gérard de Nerval, c'è, proprio come nel libro dei Memoirs d'Outre-Tombe relativo a Combourg, una sensazione dello stesso genere del sapore della Madeleine e del cinguettio del tordo. In Baudelaire, infine, queste reminiscenze, ancora più numerose, sono con ogni evidenza meno fortuite e dunque, a mio avviso, decisive. È il poeta stesso, con maggior scelta e pigrizia, a cercare volontariamente, per esempio nell'odore d'una donna, dei suoi capelli e del suo seno, le analogie ispiratrici capaci di evocargli l'immensa celeste rotondità del cielo e un porto pieno d'alberi e di fiamme. Stavo dunque cercando di ricordare i brani di Baudelaire, alla cui base c'è, appunto, una sensazione trasposta, allo scopo d'aggregarmi definitivamente a una filiazione tanto nobile e rassicurarmi così che l'opera a cui stavo per accingermi senza più esitazioni meritava lo sforzo che le avrei consacrato quando, arrivato in fondo alla scala che scendeva dalla biblioteca, mi trovai di colpo nella grande sala e nel mezzo d'una festa che doveva sembrarmi assai diversa da quelle cui avevo assistito in passato, assumendo ai miei occhi un aspetto particolare e un significato nuovo. In effetti, non appena entrai nella sala, sebbene tenessi sempre ben fermo dentro di me, al punto cui l'avevo condotto, il progetto concepito poco prima, si verificò un colpo di scena capace di sollevare contro la mia impresa la più grave delle obiezioni. Un'obiezione che avrei superata, certo, ma che continuando io a riflettere fra me e me sulle condizioni dell'opera d'arte, doveva interrompere di continuo il mio ragionamento con l'esempio 100 volte ripetuto della considerazione più adatta a farmi esitare. Al primo momento non capii come mai stentassi a riconoscere il padrone di casa, gli invitati, e ciascuno mi desse l'impressione d'essersi messo una maschera, generalmente con i capelli incipriati, che lo cambiava completamente. Il principe aveva ancora, nel ricevere, quel fare bonario da re di favola che avevo notato in lui la prima volta, ma stavolta quasi si fosse uniformato anche lui all'etichetta che aveva imposta ai suoi invitati. S'era appiccicato una barba bianca e sembrava trascinarsi ai piedi delle suole di piombo che li appesantivano, come se si fosse proposto di raffigurare una delle età della vita. Anche i baffi erano bianchi, come se vi si fosse rappreso il gelo della foresta di Pollicino. Sembrava che dessero fastidio alla sua bocca irrigidita e una volta raggiunto l'effetto avrebbe dovuto toglierli. A dire il vero, lo riconobbi solo con l'aiuto ad un ragionamento, traendo dalla semplice somiglianza di alcuni tratti la conclusione che si trattava della stessa persona. Non so cosa si fosse messo sulla faccia il giovane Fezensac, Ma mentre altri si erano imbiancati, chi metà della barba, chi soltanto i baffi, lui, senza prendersi la briga di tingersi, aveva trovato il modo di coprirsi il volto di rughe, le sopracciglia di peli irti, il che, nell'insieme, non gli donava affatto. Il suo viso dava l'impressione d'essere indurito, bronzeo, solenne. Lo invecchiava a tal punto che assolutamente non sembrava più un giovanotto. Assai più stupito fui, nello stesso momento, sentendo chiamare duca di Châtellerault un vecchietto con degli argentei baffi da ambasciatore, nel quale solo un angolino dello sguardo, che era rimasto uguale, mi permise di riconoscere il giovane che avevo incontrato una volta da Madame de Villeparisis. Al primo che mi riuscì di identificare in questo modo, cercando di fare astrazione dal travestimento e di completare con uno sforzo di memoria i tratti rimasti naturali, il mio primo pensiero sarebbe dovuto essere, e forse, per una frazione di secondo, fu, di complimentarmi con lui d'essersi così meravigliosamente truccato che all'inizio, prima di riconoscerlo, si aveva la stessa esitazione che i grandi attori impegnati in una parte in cui sono diversi da se stessi ispirano, entrando in scena, al pubblico che, pur avvertito dal programma, resta per un istante sbalordito prima di scoppiare in un applauso. Da questo punto di vista, il più straordinario di tutti era il mio nemico personale, il signor d'Agincourt. Autentica attrazione del ricevimento, non solo. Al posto della sua barba appena brizzolata, si era appiccicato una straordinaria barba dal candore inverosimile, ma a tal punto dei piccoli cambiamenti materiali possono rimpicciolire o ingrandire un personaggio e addirittura cambiarne il carattere apparente, la personalità. Si era inoltre trasformato in un vecchio mendicante che non ispirava più alcun rispetto. Lui, che m'era ancora presente nel ricordo con la sua solennità e il suo portamento inamidato, e impersonava la sua parte di vecchio rimbambito con una tale verità che le sue membra tremavano e i tratti rilassati del suo volto abitualmente altezzoso non smettevano di sorridere con una beatitudine idiota. Arrivata a questi livelli, l'arte del travestimento diventa qualcosa di più. Una trasformazione completa della personalità. In effetti, per quanto qualche piccolo particolare mi certificasse che era pur sempre Agincourt a offrire quello spettacolo inenarrabile e pittoresco, attraverso quanti stati successivi d'un volto dovevo passare per ritrovare quello dell'Agincourt che avevo conosciuto e che era così diverso da se stesso pur non disponendo che del proprio corpo. Era con ogni evidenza il punto estremo cui egli aveva potuto condurlo senza andare in pezzi. Il più fiero dei volti, la più impettita delle figure, non erano più che un cencio imputridito, sballottato da ogni parte. A stento, ricordando certi sorrisi che mitigavano un tempo per un attimo la sua alterigia, si poteva ritrovare nel vero Agincourt quello che avevo visto tante volte. Si poteva capire come la possibilità di quel sorriso da vecchio straccivendolo rammollito esistesse nell'irreprensibile gentleman d'allora. Ma anche supponendo che Agincourt avesse avuto la medesima intenzione di sorriso, la materia stessa dell'occhio, attraverso cui l'esprimeva, era, a causa della prodigiosa trasformazione del suo volto, talmente diversa che l'espressione diventava tutt'altra e addirittura d'un altro. Fui preso da un'ilarità irrefrenabile davanti a quel sublime citrullo, altrettanto ammorbidito nella sua benevola caricatura di se stesso quanto, sul versante tragico, il signor di Charlus fulminato e compito. Nella sua impersonificazione d'un moribondo da burla, degno d'un Regnard esagerato dalla Biche, il signor d'Argencourt era non meno affabile. Alla mano del signor di Charlus, re Lear, che si toglieva compuntamente il cappello per contraccambiare il saluto dei più mediocri. Non mi venne in mente tuttavia di dirgli la mia ammirazione per lo straordinario spettacolo che offriva. A impedirmelo non fu la mia vecchia antipatia, visto che era ormai talmente diverso da se stesso da darmi l'illusione di trovarmi di fronte a un'altra persona, benevola, inerme, inoffensiva quanto l'Argencourt abituale era arrogante, ostile e pericoloso. A tal punto un'altra persona, che a vedere quel personaggio ineffabilmente smorfioso, comico e bianco, quell'omino di neve che simulava un generale d'Urachin rimbambito, si sarebbe detto che l'essere umano potesse subire metamorfosi non meno complete di quelle di certi insetti. Avevo l'impressione di guardare, dentro l'istruttiva vetrina d'un museo di storia naturale, cosa può diventare l'insetto più veloce, più sicuro nei movimenti, e non potevo più provare, davanti a quella molle crisalide più vibratile che mobile, i sentimenti che il signor d'Argencourt mi aveva sempre ispirato. Ma tacqui. Non mi rallegrai con lui per lo spettacolo che offriva e che sembrava spostare più in là i limiti entro i quali possono muoversi le trasformazioni del corpo umano.